A bordo campo di Dario Ricci. Oggi a bordo campo parliamo di fair play. Fair play finanziario, cioè le misure che l'UEFA nel calcio ha varato per tenere sotto controllo i costi e i conti del calcio europeo e dei club del vecchio continente. Sentiamo quello che ci aveva detto proprio a Radio 24 il portavoce dell'UEFA, William Gaillard, nel marzo del 2009. Queste misure si applicheranno alle competizioni UEFA. E poi se le leghe e le federazioni vogliono seguire e fare lo stesso a livello nazionale, sarà responsabilità loro e decisione loro. Ma soprattutto noi pensiamo a un cocktail di misure che potrebbe prendere spunto da alcune di queste idee, limiti sugli stipendi, sul numero dei contratti che ogni club ha con giocatori, una ridistribuzione dei redditi più equa, ma tutto in modo graduale, senza pensare che possiamo trovare una panacea ai problemi economici del calcio europeo. Queste le premesse. Nel settembre scorso l'esecutivo dell'UEFA ha approvato le norme del fair play finanziario. Sentiamo questa scheda. Questi i principi fondamentali del fair play finanziario varato dall'UEFA. 1. Se un club vuole partecipare alle competizioni europee, deve avere 2 bilanci su 3 negli ultimi 3 anni in positivo e quello eventualmente in rosso dovrà essere ridotto. 2. Si potrà spendere tanto solo per le spese virtuose, stadi giovanili, infrastrutture, eccetera, e meno per quelle pericolose, come gli ingaggi e i cartellini ultramilionari. 3. 4 volte all'anno verranno effettuati controlli accurati sulle spese e saranno considerati illegittimi gli esborsi di capitale abnormi dei grandi magnati per coprire le perdite. 4. Si aumenterà il controllo sui grandi approvvigionamenti di capitale tramite sponsor fittizi. 5. Per chi non rispetta il regolamento sono previste multe pesantissime e sanzioni fino all'esclusione dalle competizioni europee. Norme, quelle del fair play finanziario, quindi, che sarebbero dovute entrare in vigore nel 2012. Ora c'è stato però un rinvio, si partirà dal 2015. Ne parliamo oggi con Ernesto Paolillo, l'amministratore delegato dell'Inter e uno dei 2 super consulenti per questo tema dell'ECA, l'European Club Association, l'ente che riunisce tutti i club europei. Allora, dottor Paolillo, benvenuto a bordo campo. Beh, insomma, diciamocelo francamente, ce l'avete fatta a mettere i bastoni tra le ruote a Michel Platini, che voleva controllare i conti dei club europei. Questo rinvio dal 2012 al 2015 è un po' una vittoria per voi club del vecchio continente, no? Che apparentemente è un rinvio. In pratica la normativa parte in tempi che definiamo tutti estremamente corretti, perché vengono considerati i primi 2 anni, quelli dove non ci sarà osservazione, come 2 anni di partenza dell'assestamento dei bilanci da parte della società, perché poi dal 3° anno bisognerà già rispettare le nuove norme che prevedono per il triennio, quindi fino al campionato incluso 2014-2015, di poter avere una perdita massima di bilancio di una media di 15 milioni l'anno o 45 milioni nei 3 anni, che può voler dire primo anno 45 milioni, ma gli altri 2 anni già bilancio in pareggio. Si comincerà a far sul serio, diciamo così, dal 2015. È stata letta questa come una vittoria da parte dei club che avevano accolto con malcelata preoccupazione la riforma Platini. Da questo punto di vista, la posizione ufficiale dell'ECA qual è? Ma la posizione ufficiale dell'ECA è che, avendo la maggior parte della società dei contratti quinquennali con i giocatori, non si poteva raggiungere da parte della gran parte delle società, della maggior parte delle società, il break-even già partendo dal prossimo campionato nel primo triennio, perché molti dei contratti che saranno oggetto o di rinegoziazione di giocatori oppure di trasferimento di giocatori perché ritenuti onerosi per il fine di bilancio, scadendo dopo il triennio, avrebbero messo le squadre in una situazione di obiettiva difficoltà contrattuale. Quindi è logico che il periodo dovesse essere quinquennale di partenza e non triennale. Dal punto di vista dei club, avete voi sottolineato anche il fatto che arrivare ad una normativa fiscale comune ai club è una cosa che stona e non poco, col fatto che questa comunanza di intenti e di regolamenti e di norme e di leggi non si riesce a raggiungere in Europa anche in altri ambiti al di fuori di quello calcistico. Purtroppo dovremmo darci delle regole comuni, perché è difficile applicare, almeno sotto il profilo dei bilanci ovviamente, è difficile applicare norme diverse per gli uni e per gli altri, perché non c'è nessuna norma di bilancio che possa prevedere una differenziazione sotto il profilo fiscale e un diverso trattamento per società che hanno dei benefici o dalla proprietà dello stadio o da una normativa che vede, come per le società spagnole, la possibilità di aumentare il capitale, includendo questo aumento di capitale fra i ricavi e non fra gli aumenti di capitale. Faccio il caso del Barcellona, del Real Madrid, che non sono di un proprietario ma sono di una cooperativa di soci che sottoscrivono una fee annuale di iscrizione alla squadra. È un vero e proprio aumento di capitale, perché può variare di anno in anno a seconda delle esigenze di bilancio, ma viene iscritta nei ricavi e non negli aumenti di capitale. La verità è che l'Italia ne è penalizzata. Questo continuerà anche nei prossimi anni, perché vede, le nuove norme prevedono un tetto di spendibilità sul mercato dei giocatori o degli allenatori da parte delle società che è commisurato la capacità di fare introiti, e non si potrà chiudere il bilancio con una perdita anche a regime superiore a un massimo di 10 milioni di euro l'anno. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che le società che più riescono a generare ricavi, come sono le spagnole, bravissime nel merchandising, ma anche bravi ad ottenere una legge che permette di vendere i diritti televisivi in proprio e la possibilità di fare gli aumenti di capitale, come abbiamo detto prima, questo li agevolerà anche in futuro. Quindi il mercato del calcio, il mercato dei giocatori si sposterà ancora una volta a favore delle spagnole. Due aree però garantiscono alle varie società europee la possibilità di sforare questi limiti di bilancio senza incorrere in sanzioni e in ultima analisi nell'esclusione dalle coppe, cioè gli investimenti in infrastrutture e nei vivai. Questo viene a favore delle squadre italiane, che finalmente si daranno una mossa per avviarsi verso lo stadio di proprietà. Se guardiamo gli esempi esteri, tutte le squadre che hanno uno stadio di proprietà e che lo sanno gestire ovviamente, hanno fatto il turnaround di bilancio e hanno il bilancio positivo. L'esempio classico è l'Olympique di Lione, quella proprio del mio amico là, che da un bilancio costantemente in perdita, da quando ha avuto la gestione dello stadio e avuto lo stadio, è passato all'improvviso da un bilancio costantemente inattivo. Lo stadio è fondamentale perché genera ricavi 7 giorni su 7 al di là della partita. Guardiamo anche il Bayern di Monaco e altre realtà. L'Italia poi ha bisogno di stadi, perché oggi la gente che va allo stadio è, tra virgolette, maltrattata dal fatto che non abbia tutte le facilities adeguate per stare bene in quel luogo. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto che lei toccava, oltre a quello degli stadi, indubbiamente questa nuova normativa porterà ancora una volta le squadre italiane a dover fare uno sforzo in più per andare verso una realtà diversa. Poi qualcuno dovrà anche dire ai giocatori che, così come è strutturato il sistema, ha una voce di bilancio, che è quella relativa agli stipendi, insostenibile. Ci avete già provato? Guardi, l'idea fondamentale era quella, e sarebbe stato il benvenuto, del salary cap. Un salary cap fatto come hanno fatto le leghe basket, piuttosto che baseball, piuttosto che di football americano, perché veramente col tetto ai salari hanno dato una svolta al mercato e ai bilanci delle società. In Europa non si può fare, l'UEFA ce l'ha spiegato chiaramente per chiari divieti della normativa europea, non potendo fare il salary cap, l'unico modo per bloccare le spese folli è quello di tagliare ovviamente i bilanci, obbligando tutti a non fare follia. Le chiedo ancora, dottor Paolillo, qualcuno, ad esempio anche la Premier League tanto osannata, si sta un po' annoiando del dominio delle solite grandi, no? Che pure sono affascinanti, brillanti, grandi campioni, però insomma vedere 8 volte Inter e Real Madrid e Manchester che si sfidano nello stesso anno alla fine alla lunga stufa. E era venuta fuori questa idea di assegnare ad esempio il quarto posto valido per i preliminari di Champions tramite i playoff a fine campionato. È un'idea di cui avete in qualche modo parlato a livello di grandi club europei? Si è parlato a livello teorico per vedere quali possono essere nuovi incentivi, nuovi cambiamenti, nuove cose. Il problema vero è che i calendari impediscono in Inghilterra, in Italia e dappertutto di poter fare anche dei playoff di questo tipo, perché non ci sono proprio i giorni per giocare partite aggiuntive. E questo è un grosso limite che oggi si ha, a meno che ridurre drasticamente il numero delle squadre che partecipano ai vari campionati per ottenere più giornate, ma questo è ancora più difficile, perché si figuri qual è il club che è disposto a un taglio del numero di club che partecipano alla Serie A nelle varie nazioni. Abbiamo visto nel mercato invernale ad esempio un Inter protagonista con grandi acquisti che in qualche modo si dice hanno ulteriormente sbilanciato il campionato, perché diciamo la squadra già campione d'Italia da tempo con le maggiori disponibilità economiche ha preso anche i giocatori più forti sul mercato, uno su tutti Pandev. Crede che ragionando su una prospettiva europea si possano individuare dei meccanismi di autoregolamentazione di questo aspetto del mercato? Perché poi alla lunga le dinastie, che siano nerazzurre o rossonere o bianconere o blaugrana o merengues, alla fine possono stancare l'appassionato. Ma guardi, chiaro che avremo in ogni nazione, proprio per questa norma che chi fa più ricavi più può spendere e più potrà comprare giocatori, avremo sempre un gruppetto di squadre che avrà più competitività rispetto alle altre. È anche vero che però le nuove regole di bilancio spingeranno molto i club ad avere e a schierare più i giovani che i giocatori quotati, affermati, che costano tanto. Quindi il calcio cambierà drasticamente in favore dei giovani e di chi ha un ottimo settore giovanile. Sono convinto che dal 2015 in avanti sarà così. Più le squadre capaci non di comprare talenti, ma di creare talenti. A bordo campo. Signor Presidente, no, dico, lei ce l'ha presente il mondo delle corse? Sarebbe a dire tutta quella gran caciara di gente che si raduna negli ippodromi per scommettere sui cavalli, ce l'ha presente? Matti, un mondo di matti, roba da manicomio, signor Presidente. Beh, la musica l'avete sicuramente riconosciuta, così come la voce di Gigi Proietti. Parliamo di febbre da cavallo, parliamo di ippica oggi a bordo campo. Perché? Perché mercoledì prossimo, mercoledì 17 marzo, dovrebbe ricominciare la stagione, ma quel condizionale pesa come un macigno sulla nata dell'ippica nostrana, soprattutto a San Siro, dove la pista del trotto è stata chiusa, la stagione, l'avvio è incerto a causa delle divergenze economiche tra la società del gruppo SNAI, la società Trenno che gestisce gli impianti, e l'Unire, l'ente governativo che amministra i diritti sportivi e fissa i calendari. È saltata la firma della convenzione e poi l'area del trotto milanese si estende, lo ricordo, per 40 ettari e secondo alcuni è appetita, diciamo così, dagli immobiliaristi, mentre i 160 ettari del galoppo sono tutelati da vincolo monumentale, quindi al riparo da eventuali speculazioni edilizie. E allora abbiamo deciso di fare un salto a San Siro per scoprire la San Siro del trotto e del galoppo con una guida d'eccezione. Maria Sacco, prima fantina italiana, ora allenatrice di cavalli e storica animatrice del comitato che difende l'ippodromo. Siamo andati a trovarla nelle sue scuderie per parlare di ippica e non solo. Sentite. Allora, sulla pista di San Siro, circondati da tanti bellissimi cavalli che si stanno allenando, con Maria Sacco, allenatrice Allenatore, e qua già tocchiamo il tasto delicato dell'essere donna in un mondo prettamente maschile, certo. Esattamente. E poi anche animatrice, anima del comitato San Siro. Per la difesa dell'ippodromo di San Siro. Eh sì, perché è un momento particolare per questo ippodromo, vero signora Sacco? È da un po' che non si corre, perché? No, beh, adesso diciamo che da un po' che non si corre perché meteorologicamente le corse non si fanno d'inverno e si dovrà ricominciare il 17 di marzo. Però il problema è se purtroppo l'Unire, Unione Nazionale Incremento Razze Equine, continua a fare il braccio di ferro con le società di corse, non si riaprirà o quantomeno si ritarderà la riapertura delle corse. Ed è un problema di convenzioni economico, politico, che purtroppo sono più grosse di noi e rischiamo noi operatori ippici di rimanere chiusi nel loro braccio di ferro. Infatti un braccio di ferro tra la SNAI e l'Unire di fatto, no? Sì, diciamo non solo SNAI ma anche Capannelle, i ippodromi metropolitani, Milano e Roma e l'Unire. Qui SNAI, oltretutto noi a Milano con SNAI abbiamo anche dei problemi in più in quanto siamo sempre in lotta per mantenerci le aree che sono troppo importanti e SNAI invece ha sempre qualche interesse non tanto a vendere ma soprattutto a cementificare, perché ci sono dei banditi che vorrebbero prendere i nostri terreni. Beh sì, insomma, termini forti quelli che usa Maria Sacco, però di fatto diciamo che l'area dell'ippodromo di San Siro è sicuramente un'area appetibile anche ad eventuali edificazioni edilizie, mentre il trotto e il galoppo sono qua patrimonio nazionale, diciamo sì, così. Sì, in parte per quanto riguarda l'ippodromo anche sancito dalla legge, no? Una parte dell'ippodromo anche vincolata. Sì, l'ippodromo da corsa del galoppo e una delle piste di allenamento del galoppo sono vincolati a vincolo monumentale, per fortuna. Messo da Italia Nostra 4 anni fa è stato un bellissimo, grandissimo successo. E oltretutto penso anche SNAI sia molto contenta in quanto è il primo ippodromo al mondo a essere vincolato. Quindi per loro è un primato. Il problema invece nasce sulla pista del trotto. Il problema nasce sulla pista del trotto e sulla pista della Maura, che sono sempre vincolate a verde. Purtroppo sono abbastanza appetibili anche a Inter e Milan, soprattutto il trotto, ma bisogna riuscire assolutamente a far sì che questo non succeda, cioè che non vengano vendute, o quantomeno se vengono vendute che rimangano le destinazioni d'uso attuale. Ecco, da questo punto di vista quali possono essere le soluzioni in campo? Innanzitutto per scongiurare il ritardo dell'inizio della stagione e poi per vincolare l'area all'uso attuale, insomma. Basta che le istituzioni intanto non cambino le destinazioni d'uso, cioè i politici facciano i politici e non facciano, senza usare termini forti, facciano il loro dovere e lasciano tutto come sta, perché deve rimanere come sta quello che è. Per quanto riguarda l'Unire, che si comporti di conseguenza. Unione Nazionale Incremento Razze Equine vuol dire incremento, non decremento. Invece loro a quanto pare stanno facendo tutto fuorché l'incremento. Analisi filologicamente corretta quella di Maria Sacco, che tra l'altro, oltre a essere combattiva rappresentante del Comitato San Siro, è anche una bandiera dell'Ippica Nazionale, perché è stata forse la prima allieva fantina nella storia dell'Ippica italiana e non solo, no? Sì, no, all'estero non lo so, penso di no, penso che ci sia stato senz'altro qualche altra donna. In Italia sì, la prima allieva lo sono stata. Ecco, difficile diventare fantina in un mondo prettamente connotato al maschile. Beh, quando ho iniziato io era un pochettino difficile in quanto la donna non aveva l'emancipazione che teoricamente potrebbe avere adesso. Soprattutto, poi è anche una vita abbastanza dura, onestamente. E sei sempre una donna, perché non sono femminista, però ritengo che purtroppo essere donna ti porta a dover superare molti, molti ostacoli. Cioè devi dimostrare 3 volte quello che dimostra un uomo per essere alla stessa altezza, per essere alla pari. Com'è nata questa passione? Diciamo che passione per i cavalli l'ho sempre avuta, infatti ho iniziato facendo i concorsi ippici, mi è sempre piaciuto andare a cavallo proprio. Poi quando mia mamma mi ha portato alle corse perché non volevo studiare, ho deciso che non potevo non stare, le corse sono la cosa più bella che esiste proprio. Lei è di Alessandria, ma mi diceva prima, quando ho visto San Siro ho capito che questo era il mio posto. C'è un fascino particolare, no, per questo ippodromo, per questa pista. Sì, San Siro è San Siro. Me la racconta questa prima volta a San Siro? Beh, no, la prima volta sono venuta soltanto a provare un cavallo, a proprio provare un cavallo, vedere come era mi hanno portato in dirittura era una velocità che non avevo mai fatto, ovviamente. Sventolavano tutto, persino le orecchie, era una cosa stupenda, quindi ho capito che quella era la mia vita. Per noi San Siro è Ribaud e anche delle serate indimenticabili sancite da Varenne, no? Il mito italiano, insomma, ricordo delle pagine leggendarie scritte da Candido Cannavò proprio su Varenne. Un ricordo di questo grandissimo campione qui a San Siro, la serata da incorniciare. Beh, io Varenne sinceramente l'ho visto correre, ma è trotto e mi occupo più di galoppo, però è sempre è storia, bisognerebbe, speriamo che ne nascano ancora di Varenne e di Ribaud, perché attireranno la gente proprio, ma è un mito, è rimasto un mito nel cuore di tutti. Ecco, dalla sua esperienza come fantino, mi diceva, non è nata una vera e propria scuola al femminile, vero? Siete rimaste soprattutto, diciamo, delle esperienze, sì, delle atlete, delle campionesse, ma in un numero piuttosto limitato. Perché non è, chi eravate innanzitutto e perché poi non si è riuscita a creare una vera e propria scuola al femminile? Beh, non c'è neanche al maschile veramente la scuola, perché qui siamo un po' sempre grazie all'UNIR, che è un ente che dovrebbe essere di riferimento, dovrebbe, non c'è proprio, adesso sì, stanno facendo delle scuole per gli allievi fantini, ma grandi grandi scuole non ce ne sono, soprattutto al femminile sarebbero troppo, cioè allestire una scuola per poche persone non si potrebbe neanche fare, tutto sommato. Le donne che sono state più importanti nell'Ippica è stata Tiziana Sozzi, che è la prima donna fantino. Poi, e io la prima allieva, poi Manuela Zini, Enza Ferrari, Jacqueline Freda, che ha vinto un sacco, moltissime corse, che adesso ha un'associazione per i cavalli del servizio, cioè quelli che si riciclano dalle piste pur di non mandarli al macello, lei li allena per fare varie tipologie di discipline. Però altre donne non se ne sono avvicinate, forse perché è una vita abbastanza dura, difficile, quindi ripeto, per poche persone non allestiscono davvero una scuola. Senta, mancano veramente pochi giorni all'inizio della stagione, a questo punto si parte, che scenario vede per San Siro? Siamo in attesa, però vedo sempre uno scenario positivo, tutto sommato, anche se con fatica, ma lo vedo bello. Ecco, il futuro del movimento in generale, del movimento dell'Ippica in generale in Italia? È un momento di crisi, ma perché è in crisi proprio la politica, cioè è in crisi l'economia in tutto il mondo e anche in Italia, quindi l'Ippica a maggior ragione ne risente ancora di più, perché l'Ippica costa, cioè i cavalli costano, è uno sport costoso, però come tutte le cose quando si tocca il fondo si rimbalza, adesso stiamo toccando il fondo, però rimbalziamo. L'importante è mantenere i nostri centri di allenamento qua a Milano, che sono la cosa più bella che esista. Senta, in tante serate indimenticabili qui a San Siro, qual è quella da incorniciare nella sua carriera? C'è il momento doc? Vabbè, ne ho vinte parecchie di corse, sono state, la prima è stata bellissima, che c'era anche mio padre che è rimasto, si è messo a piangere, poi sono state molto belle tante corse anche difficili, battendo Gianfranco Dettori, a volte ho battuto anche Lester Pigott, che è stato uno dei miti della storia, ne ho avute parecchie, però adesso bisogna guardare quelle future. Come allenatore. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Pietro Lacorte in regia, vi ricordo che potete riascoltarci così come tutti i programmi di Radio 24 sul nostro sito internet www.radio24.it e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento con A Bordo Campo nell'edizione domenicale è per domenica prossima alle 14.30, ma vi ricordo ogni sabato alle 13.15 lo speciale A Bordo Campo Sudafrica 2010 nel cuore del mondiale. Un saluto da Dario Ricci.